Italia in controluce. Italia in controluce, due edizioni quotidiane che raccontano l'Italia. Buongiorno da Daniele Biacchessi, Giorgio Ambrosoli, di cui ricorre l'anniversario della sua morte, è il protagonista di questa puntata. È l'anno 1979 ed è la sera dell'11 luglio. L'avvocato Giorgio Ambrosoli è un uomo per bene, un uomo di poche parole, un professionista riservato quanto basta. Da alcuni anni ricopre un ruolo importante ma scomodo. È liquidatore della banca privata del finanziere Michele Sindona. Nel tempo svelerà i meccanismi dell'economia mafiosa, quella dei colletti bianchi che si nasconde dietro società pulite, gestite da prestanome. Gli affari sporchi della mafia politica, quella che non fa rumore, che agisce in silenzio, ma che minaccia al telefono. Pronto? Pronto, avvocato? Sì. Mi sono spiegato bene. Lei mi dice che Andreotti dice che la colpa è mia. Esatto, e io cosa ci posso... Ha telefonato là, di sopra, no? Sì. Dicendo che aveva telefonato a quello e che lei non voleva collaborare per niente. Mi sono spiegato. Sì, ma scusi, io cosa ci posso fare? Telefono al Presidente del Consiglio, guardi che lei si sbaglia? No, per carità, io questo no, ma insomma ci voglio dimostrare sì. Quello che mi chiamano dietro le sue spalle. Forse per questo l'ho richiamato, capisci? Ma io vorrei sapere, perché sono estremamente generici i suoi discorsi, Andreotti dice che io non voglio collaborare per cosa? Lui ha telefonato direttamente a quello, dicendo io ho fatto telefonare da quel signore là. Ma il dottor Ciampi mi avrebbe telefonato, secondo Andreotti? Esatto. E come fa ad inventarselo, Presidente del Consiglio? Perciò io lo sto dicendo io. Lei chiede in Banca d'Italia se il dottor Ciampi mi ha telefonato. No, io non chiedo a nessuno, voglio che lei insomma si rende conto della situazione. Che cosa vuole? Domani gli avvocati ci sanno dire quello che deve fare, avvocato. Sì. E se lo può fare. Sì. E dopo noi altri ci rivediamo, lo vengo a salutare di persona. Sarebbe ora. Va bene? Va bene? E vengo con una bella busta. No, perché così ci guadagniamo. No, come avvocato? No, dico, non c'ho niente da guadagnare. No, va bene, che io lo vedo, non è una persona a posto, per cui io non mi sento, diciamo, di poter fare del male, se prima sono sicuro, che sono fregato. Vabbè, senta, ci sentiamo domani dopo aver parlato con Guzzi. Arrivederlo. Grazie, di nuovo. 11 luglio 1979. Milano si è svuotata e le ombre della sera sono avvolte da un caldo umido che non ti fa respirare. Ci sono sei amici che si conoscono dai primi degli anni 70. Le loro mogli sono in vacanza con i bambini, così decidono di vedersi come ai vecchi tempi e vanno a mangiare al ristorante. Ambrosoli è stanco, turbato, ma quella sera sorride, è cordiale, allegro. Alle 10:30 i sei amici hanno finito di cenare. In televisione scorrono le immagini dell'incontro di pugilato tra Lorenzo Zanon ed Alfio Righetti. Fanno a pugni per conquistare il titolo europeo dei pesi massimi. La casa più vicina al ristorante è quella di Ambrosoli, così ripartono in macchina. E ora sono davanti al piccolo schermo nell'abitazione dell'avvocato, Milano, via Morozzo della Rocca, numero 1. Ambrosoli è contento, una serata come quella era da tanto tempo che non la trascorreva. Ci si toglie la giacca e si slasciano le cravatte. E ora gli occhi di tutti sono puntati su quei due atleti in calzoncini corti che si stanno picchiando. Il pugilato distrae, la mente di Ambrosoli per un attimo si allontana da quei pensieri che lo assillano ormai da troppo tempo. Gli occhi lucidi rimangono fissi e tornano i ricordi. La memoria si dilata nel tempo. 1971, Banca d'Italia. Il governatore Guido Carli convoca Giorgio Ambrosoli. Gli affida l'incarico di commissario liquidatore della banca privata italiana di Michele Sindona. Pochi mesi prima, dalle indagini sui conti correnti di Sindona, erano emersi gravissime irregolarità e strane operazioni bancarie per miliardi di vecchie lire. Ma Sindona è potente, ha appoggi internazionali e stimatori nel governo. Il fallimento della banca privata è stato dichiarato senza che ve ne fossero fondati motivi. Si è ricorso al fallimento per depredarmi di tutto, in Italia e in Svizzera, dove io regolarmente, uno dei pochissimi italiani, aveva dei beni. Lei sa che, mentre è noto che i capitali vanno via dall'Italia in bianco, in nero e in rosso, io sono stato uno dei pochissimi italiani che ha sempre importato capitali in Italia. Come premio io oggi mi trovo in esilio. Ambrosoli va avanti, tira dritto, cerca la verità ad ogni costo. La società Fasco di Sindona è una società che ne contiene altre, come nel gioco delle scatole cinesi. E in questo enorme cavallo di Troia si nascondono flussi di denaro sporco proveniente dal narcotraffico ed altri affari illegali. Centinaia, migliaia di miliardi. Ambrosoli fa il suo lavoro fino in fondo, scioglie il consiglio di amministrazione della Fasco, non accetta i progetti di salvataggio di Sindona proposti da politici e da faccendieri. Accanto a lui c'è Silvio Novembre, maresciallo della Guardia di Finanza. E proprio in quell'esatto momento arrivano le minacce. Voglio che lei, insomma, si rende conto della situazione. Che cosa vuole? Domani gli avvocati ci fanno dire quello che deve fare, avvocato. E se lo può fare. E dopo noi altri ci rivediamo, lo vengo a salutare di persona. Sarebbe ora. Va bene? Va bene? E vengo con una bella busta. No, perché dico, così ci guadagniamo. No, come, avvocato? No, dico, non c'è niente da guadagnare. No, va bene, che io lo vedo, non è una persona apposta, per cui io non mi sento, diciamo, di poter fare del male, se prima non sono sicuro, che sono fregato. Vabbè, senta, ci sentiamo domani dopo aver parlato con Guzzi. Arrivederci. Grazie di nuovo. 11 luglio 1979, Zanoni e Righetti si stanno picchiando forte. Il posacenere tra cima di mozziconi di sigarette. La tensione per l'incontro di pugilato è altissima. I sei amici urlano, la casa sembra il palazzetto dello sport di Rimini. L'incontro finisce in parità e il titolo di campione europeo resta a Zanon. È mezzanotte e squilla il telefono. Pronto? Pronto, avvocato? Sì? L'altro giorno ha fatto il bulbo. Non posso registrare la telefonata. Chi l'ha detto? Sono fatti miei che me l'ha detto. Io non volevo salvare, ma da questo momento non lo salvo più. Ma non mi salva più? Non lo salvo più. Perché lei è segno solo di morire ammazzato come un cornuto. Perché lei è un cornuto e paesaggio. Ambrosoli scende in strada, saluta i due amici che torneranno a casa a piedi. Sulla vettura dell'avvocato salgono gli altri tre amici, li accompagna a casa, poi torna indietro, parcheggia la sua Alfetta blu davanti a casa, scende dalla macchina, sta per chiudere la portiera. Signore Ambrosoli? Sì? Mi scusi, signore Ambrosoli. Tre colpi di Magnum 357 spengono la vita di Giorgio Ambrosoli, il passo di un uomo per bene. I tribunali accetteranno che William Aricò, killer della mafia italo-americana, uccida Ambrosoli su mandato esplicito di Sindona. Ambrosoli viene fermato perché rappresenta lo stato delle regole e della legalità. Al funerale dell'avvocato Ambrosoli, purtroppo, nessuna autorità e rappresentanza del governo gli ha reso omaggio. Ma cosa resta della memoria di Giorgio Ambrosoli? Il figlio Umberto fa l'avvocato, proprio come il padre. Era un professionista, un libero professionista, che a un certo punto della sua ancora giovane carriera è stato chiamato a rappresentare gli interessi della collettività, chiamato dal governatore della Banca d'Italia in relazione all'incarico di commissario liquidatore della banca privata italiana, la banca di un finanziere molto abile, capace, intelligente, che però aveva costruito negli anni un impero non fondato sul rispetto delle regole. E così quell'impero era crollato di colpo e la banca era fallita e vi era la necessità di un commissario liquidatore che appunto si occupasse degli interessi della collettività in relazione a quel fallimento. Suo padre viene ucciso una sera di molti anni fa e viene ucciso proprio sotto la sua abitazione in via Morozzo della Rocca numero 1 a Milano. Sì, 5 anni dopo circa aver ricevuto quell'incarico, perché aveva interpretato il suo ruolo di responsabilità fino in fondo e per come lui riteneva di doverlo interpretare, ovvero avendo a cuore solo ed esclusivamente l'interesse alla tutela del quale era stato chiamato. E così, quando, svolgendo l'incarico di commissario liquidatore, ha realizzato che quel fallimento era determinato, quella bancarotta, anzi era determinata, era stata determinata